fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Il nostro studio radio, che in questo momento è assolutamente super popolato, è super popolato di giovanissime ragazze, inclusa anche la giovanissima ragazza che c'è sul fondo, ho dato per giovanissima ragazza a tutte, no, tutti compresi, nessuno escluso. E sono così giovani perché stanno festeggiando una amica in alcuni casi, una parente in altri, altrettanto giovane che però da oggi o da pochi giorni per essere precisi, giovane almeno anagraficamente non lo è più, perché siamo in diretta con Anna. Oh Anna, benvenuta, benvenuta Anna, da dove vieni? Da Villafranca. Da Villafranca. E come dicevo prima, giovane non lo sei più, non perché festeggi la pensione, ma perché festeggio 18 anni. Oh, vai, vai con l'applauso per i 18 anni di Anna. Vai, vai, dici qual è stato, quando è stato il giorno giusto, perché ci piace saperlo. Allora, il 2 ottobre, mercoledì questo. Ah, mercoledì, però come si suol dire, è meglio fare la festa il sabato. Comunque, sì. Tradizione fare festa il sabato. Allora, Anna, chi ti accompagna questa sera? Dai, chi c'è qui con te? Allora, tutte le mie amiche, la Sara, la Giuggiola, la Emma, la Giada. Oh, la Giuggiola, Polly. No, no. La Giuggiola è fatta. È la mamma d'Alfi. È la mamma, La mamma che abbiamo parlato fuori onda, insomma, mi diceva che non faceva l'una dall'84. Quindi tipo da 25 anni che non faceva l'una di notte, infatti è un po' stranita perché non si ricordava che il mondo fosse ancora vivo a quest'ora. No, si scherza, è bello che siano rimasti così vicino a lei in questo momento così importante, in questa serata di festa qui al convento. Allora Anna, raccontaci un po', dai, 18 anni è l'età dei desideri, l'età dei sogni, è l'età delle speranze anche ovviamente, quali sono le tue, cosa hai nella tua testolina? Allora, intanto superare la maturità. Ma quando si pettina così prima di parlare vuol dire che ce n'è una grossa da dire, eh? Allora, intanto superare la maturità, che vada tutto bene. Oh, che è un primo buon obiettivo importante. Esatto. Che scuola fai? Bolisani, la Franca. Grazie. Ok, questo mi aiuta un po' di più. Ragioneria. Con le tre lingue. Ah, perché è un nuovo modo di... Sì, è relazioni internazionali per il marketing. No, ok, con la speranza, non lo so, però magari con l'obiettivo di diventare... Cambierò tutto, mi sa, all'università. Ah, cambierai tutto. Bene, allora ripetiamo la domanda. Al di là della maturità, cos'altro hai in mente? Volevo fare legge, però non lo so ancora. Perché sai solo scrivere e quindi ancora ti manca, no? Ti manca ancora quel pezzo. Puoi imparare, hai ancora tempo. Ancora tempo. E come mai ti è passata la voglia un po' di legge? Percorso difficile, soddisfacente ma difficile. Lo so, non sono indecisa ancora perché no. Beh, il tuo sogno qual è? Se ce l'hai? Lo stai ancora cercando? Beh, non è tardi, esatto, non è tardi per cercarlo. Beh, una passione, qualche passione ce l'hai che ti accompagna, che ti piace fare? Ballare, shopping, quelle cose. Ballare, cosa balli? Tu? Facevo danza classica. Ah, danza classica? Sì. E come mai? Fai ancora? No, ho smesso per la scuola, certo. Ah, beh, non riuscivi a portarlo avanti, quindi hai le dita dei piedi tutte maciullate? Sì. Un altro sogno è prendere la patente. Beh, quello non è un sogno, dai, è un percorso che sarà. Insomma, non è facile. Vuoi dire qualcosa alle tue amiche, a chi è stata con te in questa serata? Voglio bene e gli amori, ti amo. Bello, bello. Grazie. Bello, bello. La mamma, vai, dichiarazione della mamma, mamma al microfono. È unica e ti voglio tanto bene. Vai mamma, dici qualcosa, dici qualcosa. Mi metto lacrima. Dai, dici qualcosa. Dai, che un messaggino. Niente, non rilascia dichiarazioni. Dai, un salutino per l'Anna. Vai. Anch'io ti voglio bene, Anna, lo sai, vero? Oh, vedi. Quanta tenerezza. Anch'io ti voglio bene, però domattina a letto te lo rifai comunque da sola. Non cambia. Che dormono da me. Ah sì? Ah, pigiama party. Beh, come è giusto che sia, dai, in questa serata. Allora, ragazze, qualcuna vuol dire mandare un messaggio ad Anna? Dai, parlate, ragazze. Che timide. Parlo io, dai. Ragazza fantastica da sempre e oh, bello. Oddio! un'ambulanza per favore. E una ha appena lasciato un ginocchio sono nello studio. Sono contenta di essere sua amica, di averla conosciuta e le auguro tanta felicità. Oh, bello, non sono pagate, ve lo sottolineo, cioè non hanno ricevuto denaro per dire queste dichiarazioni. Forse, non lo sappiamo, non lo sappiamo, dobbiamo scoprirlo. Basta, dichiarazioni sono finite, no, un'altra. Tutte quanti attorno a te sono fortunate di averti accanto. Bella. È la figlia di Moccia, di Federico Moccia, e scrive le battute per Federico Moccia. Scrive le frasi per i baci per Gina. Esatto, scrive le frasi per i baci per Gina, che è un bel lavoro interessante. Allora Anna, grazie mille per essere stata con noi, speriamo che la festa sia stata all'altezza delle tue aspettative e dei tuoi desideri. Allora ti lasciamo andare a ballare, visto che hai voglia e ti piace anche ballare, avremo ancora modo di farlo per un paio d'ore circa. Grazie ancora e tanti auguri alla neo 18enne Anna. Ciao!